tutti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Utilizzare la leva degli investimenti per far ripartire l'economia europea è quel che si prefigge il cosiddetto piano Juncker presentato dall'attuale presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Si tratta di un piano da 315 miliardi di euro con un capitale iniziale di 21 miliardi, destinato, almeno nelle intenzioni, a colmare il vuoto di investimenti ereditato dagli anni della crisi. Il piano ha dato vita alla creazione di un nuovo fondo europeo per gli investimenti strategici e al coinvolgimento della Banca Europea degli Investimenti. Ed è stato presentato ufficialmente un anno fa da Jean-Claude Juncker, non appena insediato. Nel giugno scorso è stato approvato dal Parlamento europeo. Ora si dovrebbe entrare nella fase operativa, una sorta di cura keynesiana per portare il vecchio continente fuori dalle sacche di una lunghissima crisi che molti hanno paragonato alla grande crisi del 1929. La crisi, seguita al crollo di Wall Street del 1929, provocò una recessione mondiale di proporzioni mai registrate prima, con 13 milioni di disoccupati, la chiusura di 5.000 banche, il collasso del sistema industriale e finanziario. Il più grave disastro finanziario della storia si consumò tra il 24 e il 29 ottobre 1929. I primi a vendere furono alcuni operatori che operavano con i margin, nel tentativo di colmare l'enorme divario che si stava creando tra il valore delle azioni acquistate allo scoperto nei giorni precedenti e la quotazione sempre più bassa del titolo che registrava la telescrivente. Il 24 ottobre, il giovedì nero, già al mattino una gran folla si era radunata davanti alla borsa di New York. A metà mattinata, il caos. Il 28 ottobre, alla riapertura della borsa, volarono via ad un colpo 9,2 milioni di azioni. Il giorno dopo, il martedì nero, sul mercato, sommando le azioni del venerdì e sabato successivo, si toccò l'impressionante cifra di 48,6 milioni. La crisi dilagò rapidamente come un'epidemia. A novembre del 1930 fallirono 256 banche. Il mese successivo fu la volta di altre 352. Nella primavera successiva, una nuova ondata di fallimenti seguì al crollo delle altre borse americane, da Chicago a San Francisco. Alla chiusura delle banche seguì la simultanea contrazione della produzione. Migliaia di fabbriche ed imprese fallirono, licenziando operai e impiegati. La crisi investì l'intero sistema produttivo americano e dagli Stati Uniti si trasferì al resto del mondo. Al neoeletto presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, il compito di portare l'America e il mondo fuori da una crisi senza precedenti. Lo fece anche ricorrendo con il famoso New Deal a una robusta cura di investimenti pubblici, ma prima di tutto il suo compito fu quello di ripristinare un bene preziosissimo, la fiducia, come mostra questo estratto dal suo primo discorso da presidente. È il 4 marzo del 1933. President Hoover, Mr. Chief Justice, my friend. Presidente Hoover, signor giudice supremo, amici, questo è un giorno di solennità nazionale. Questa grande nazione resisterà come ha resistito, risorgerà e prospererà. Quindi, innanzitutto, desidero affermare la mia sicura convinzione che non abbiamo niente di cui aver paura, salvo la paura stessa. La paura anonima, irrazionale, ingiustificata, che paralizza gli sforzi necessari per trasformare il regresso in progresso. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Man, don't mean a thing. All you got to do is sing. Diamo il benvenuto allo storico Valerio Castronovo. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, lei ha definito lo scorso anno, in un articolo sul Sole 24 Ore, il piano Juncker come un possibile New Deal per l'Europa. Noi poco fa abbiamo raccontato ai nostri radioascoltatori che in effetti Roosevelt quel New Deal, su quel New Deal ci costruì in qualche modo la ripresa degli Stati Uniti, dell'economia mondiale dopo il 29, ma appunto si tratta di fatti così distanti. Ecco, intanto ci dica il suo punto di vista sul piano Juncker. Ma sulla carta, così come era stato annunciato dallo stesso Presidente della Commissione europea, aveva tutte le apparenze di un vero e proprio piano. Non dico un piano in pratica quasi come il piano Marshall, quello che ha aiutato la ricostruzione dell'Europa nel secondo dopoguerra, ma certamente un progetto importante, soprattutto perché era volto ad alcuni obiettivi oggi prioritari che riguardavano questo passaggio epocale, no, da un sistema economico che ancora risentiva in qualche modo, insomma, si rifaceva a quelle che erano le linee maestre dell'industria manifatturiera ad un tempo e anche certo. Dei problemi infrastrutturali, si rivolgeva soprattutto al rafforzamento di quelli che oggi sono i cardini essenziali anche nell'Unione Europea, soprattutto formazione, progettazione. Certo. Ma una cura keynesiana. Strutture e servizi, ecco qui sì. L'idea del piano in qualche modo si rifaceva anche al New Deal, perché infatti Roosevelt, prima di raggiungere, insomma, l'obiettivo della piena occupazione, ha puntato molto sulle infrastrutture e i servizi. Infatti è un'iniezione che noi abbiamo definito keynesiana, se sì. Vogliamo, che allora ebbe certamente un ruolo fondamentale, non solo. E che oggi fatica però evidentemente ad affermarsi in una situazione in cui l'Europa ancora non ha trovato la strada, se vogliamo, per uscire dalla crisi, una strada condivisa quantomeno. Sì, certo, questa è una cosa, ma lei, citando Keynes, bisogna ricordare che nel piano di Keynes c'era la riduzione dell'orario di lavoro no? A 40 ore rispetto alle 48, no? Da questo punto di vista gli economisti di allora, ma non soltanto gli economisti, anche i politici, non ci sentirono. Però, se vogliamo, dopo che le 40 ore conquistate nel secondo dopoguerra, anche in Italia, noi siamo rimasti ancora oggi alle 40 ore, quando i nuovi strumenti, i nuovi mezzi, soprattutto quelli elettronici, informatici, tutto sommato non richiederebbero un impiego così massiccio, insomma, di 40 ore, e così si potrebbero recuperare dei posti di lavoro. Certo. Cosa le pare? Mi sembra che questa considerazione andrebbe un po' fatta, questa questione andrebbe ripresa. Considerando che la vera emergenza in Europa è appunto l'occupazione, che non decolla, che non parte, sì, soprattutto con la giovane. L'occupazione soprattutto dei giovani, questo sì. È il punto. Questo è il punto vero. Sì, vero, perché insomma che noi, adesso gli Stati Uniti sono arrivati diciamo a quel livello cosiddetto fisiologico di disoccupazione che è il 5%, ma noi dobbiamo pensare che fino a 20 anni fa normale era il 3-3,5%, noi siamo al 12, no, adesso, e si spera di ridurre di qualche zero punti no, di qui a 2 anni la disoccupazione globale, e d'altra parte è rappresentata soprattutto da quella giovanile. Quanto giocò, professore, nella strategia anche di comunicazione di Roosevelt il tentativo di provare a ripristinare questo bene prezioso che è la fiducia? Secondo me furono essenziali queste sue conversazioni al caminetto per radio. Sì. Ecco, no, non era tanto la televisione, lì la radio giocò un ruolo fondamentale, e questa è anche bravura di Roosevelt nel comunicare, ma soprattutto nel persuadere, nel rassicurare. Fu una grande risorsa non solo sua dal punto di vista politico, ma fu una grande risorsa per il paese. Certo. Per il paese, perché oltretutto, no, lui così infermo, così, no, aveva una salute, come si vede poi, abbastanza fragile, cioè un uomo del genere dimostrava una tempra eccezionale. Quindi tale, se lui è ridotto in quelle condizioni, era tale, no, da incitare, esortare alla fiducia, da esprimere fiducia soprattutto nell'immediato futuro, beh, questo voleva dire qualcosa di più rispetto ad un'esortazione di un politico normale. Forse anche oggi avremo bisogno di un'Europa, di, in Europa di un novello Roosevelt, che dice? Sì, ma noi avremo bisogno in Europa di veri e propri leader che ci sono stati una volta agli esordi, diciamo, del processo di unificazione economica e poi di quella politica. Ma io penso che ormai da 20 anni non ci sono in Europa da nessuna parte dei veri e propri protagonisti, cioè anche dotati di carisma. Questo dobbiamo dirlo, probabilmente c'è un deperimento della classe dirigente. Sì, il problema della leadership in effetti c'è, è un problema che rileviamo, e c'è una caduta anche, se vogliamo, nella qualità del personale politico. Un vero leader sarebbe sarebbe auspicabile, forse non proprio all'altezza di Roosevelt, ma comunque. Ma certamente all'altezza di Roosevelt erano tempi, come dire, eroici. Certo. Eroici. Anche se poi la crisi che abbiamo subito dal 2008 in avanti è una crisi paragonabile a quella, in qualche modo, per tanti aspetti, a quella degli anni 30. Però secondo me è cambiata proprio, a parte le condizioni generali, la tempra degli uomini, insomma, certo quelli erano anche tempi eroici perché era una società, anche quella americana, relativamente non prospera, relativamente, anzi modestamente, certo. Prospera, tutto sommato, anche negli Stati Uniti di allora, che pur erano al vertice dello sviluppo economico, e c'era ancora livelli consistenti di povertà, non dico di precarietà, di povertà, insomma, di disagio sociale e anche molte discriminazioni. Certo. Grazie professore, molte grazie per questi suoi chiarimenti, e le auguriamo buona serata. Bene, anche a voi, buona serata.